Prevista per... Guarda, verso le 11:30 di questa mattina 400-500 persone siamo entrati dentro l'ex residenza per anziani di via Casalboccone 112, una residenza che ospitava tanti anziani, anche ultra novantenni, dove ci lavoravano 60 operatori sociali, c'era anche un centro Alzheimer. Questo posto è stato smantellato, chiuso, gli anziani deportati e i lavoratori ricollocati in mobilità. Per cui oggi abbiamo voluto riaprire questa questione, chiedendo a tutta la città di riaprire lo scontro contro i fini speculativi che ci sono dietro a questa operazione. Quest'area è di Ligresti e la proprietà è della FIMIT, un fondo immobiliare chiuso, e l'obiettivo che hanno è l'abbattimento di questa struttura e costruirci sopra una lottizzazione immobiliare. Per cui noi pensiamo di aver restituito un bene comune alla città, stiamo provando a tenerlo, siamo circondati dalla polizia, sono arrivati 10 blindati tra carabinieri e PS, ci dicono che non c'è nessuna mediazione, che questo spazio va lasciato immediatamente, la trattativa sta proseguendo ma gli spazi ci sembrano limitati. Il territorio sta rispondendo in maniera importante, e credo che anche a livello cittadino questa cosa si possa allargare. È domenica, lo capiamo, però pensiamo che questa sia anche una maniera per riaprire un conflitto dentro la città, in un momento in cui le uniche sicurezze che ci vengono offerte non sono la casa, il reddito o un welfare di cittadinanza, ma le sicurezze che ci danno sono quelle con i controlli di polizia, le perquisizioni in libertà, il restringimento degli spazi di movimento, il divieto di manifestare, cioè stanno utilizzando anche fatti di cronaca per rendere più dura la vita di chi già paga la crisi e il debito pesantemente. Credo che da questo punto di vista sia opportuno che tutta la città venga qui, ci aiuti a resistere, lavoriamo a costruire un'assemblea qua dentro tutti insieme e proviamo a ripartire da qui contro la rendita. Senti, ma l'atteggiamento della polizia al momento qual è? È di chiusura, nel senso che per loro non ci sono spazi di mediazione. Noi per adesso abbiamo preso tempo dicendo che stiamo facendo un'assemblea con gli occupanti, gli abbiamo detto che se le condizioni sono queste noi resisteremo, siamo già tutti sui tetti, centinaia di persone sono sui tetti e non siamo intenzionati ad uscire con nessuna forma di mediazione, vogliamo resistere, ci devono portare via con la forza, cioè deve uscire fuori che dentro questa città la polizia si usa non per reprimere eventualmente episodi di criminalità ma per reprimere chi lotta per i diritti, deve uscire fuori con forza chi è Alemanno, che sindaco abbiamo e che cosa non ha fatto per tutti noi. Senti, ma ci puoi ricordare la via esatta per via di Casalboccone 112, è vicino a Euronics, è un vialetto alberato, che un enclave di via di Casalboccone, che via di Casalboccone è la strada che collega via Nomentana a via della Bufalotta, sta vicino a via Casale di San Basilio. Arriverà qui, stanno arrivando gli operatori sociali della zona, stanno arrivando e compagni e compagne del territorio, la facciamo immediatamente e decidiamo insieme come andare avanti. Ho capito. Senti, ma la situazione della clinica, come dicevi tu, è già chiusa, ma hanno già portato via i macchinari, insomma. Hanno portato via tutto, stavano lamierando tutte le entrate, stavano chiudendo tutti gli ingressi, dentro c'erano dei vigilantes quando siamo entrati che hanno opposto resistenza. E poi adesso sono usciti, per cui all'interno non c'è più niente, c'è solo la struttura, la stavano mettendo in sicurezza per poi chiudere definitivamente questo spazio. Una clinica che naturalmente serviva tutta una fetta di territorio, insomma. Sì, parte. Ma c'era anche un importante centro Alzheimer, c'era un centro geriatrico, era anche di un certo livello questa struttura. Gli anziani che ci vivevano, molti ultra novantenni, vivevano anche in una condizione abitativa buona, appartamenti con balconi, parco, sono stati portati in strutture dove invece stanno molto peggio, anzi alcuni ultra novantenni, essendo stati spostati da dove hanno sempre vissuto, sono anche deceduti. c'è stata una resistenza del territorio fatto da comitati, dai sindacati, ci sono stati anche episodi in cui i familiari si sono sdraiati davanti all'entrata per impedire la deportazione, ma probabilmente gli interessi speculativi sono talmente alti che questo non è stato possibile impedirlo. Proviamo oggi a ripartire da qui. Senti Paolo, ma questo qua rientra nei tagli del piano regionale sanitario che ha fatto la Polverini? La responsabilità più grande è del comune, perché è il comune che non si è voluto più accollare la spesa di questa struttura dicendo che era troppo onerosa, ma noi temiamo che c'entri anche il piano regionale casa, perché il proprietario di questo spazio può tranquillamente cambiare di destinazione, avere un aumento di cubatura grazie alla nuova legge regionale e costruire una utilizzazione residenziale. Per cui si gemellano molto bene Alemanno e Polverini, una con la legge e l'altro svuotando lo spazio che può servire all'Igresti e alla Fimit. Stiamo parlando probabilmente di signori del mattone rilevanti e della speculazione finanziaria, ed è per questo che tanta polizia si è mossa oggi per sgomberare questo spazio.